Packers. We watch them play. When they score a touchdown, we shout to Ray. Outside is Edgar Bennett. Here's Brett looking to the end zone. Brett dancing around. Brett to the end zone. Touchdown, Andre Rison. Got knocked down as he caught the ball, but he held on, and the Packers have gone out in front by two touchdowns. Another great play. Ciao a tutti, nuova puntata di PFN, la 16ª. Io sono Salvatore Ioppolo, con me Matteo Rubinato. Ciao Matt. Allora, in teoria questa è la puntata 16 bis, visti i problemi che abbiamo avuto ieri che ci hanno fregato. Noi per fortuna oggi abbiamo l'ospite che dovevamo avere ieri, ci ha fatto la cortesia di restare, è giornalista di Fox Sports, grande esperto di football americano, è con noi Roberto Gotta. Ciao Roberto. Ciao, buonasera a tutti. Ecco, grazie per essere qui. Allora, io la prima domanda la faccio fare a Matteo. Okay, vai Matteo. Okay. Ciao Roberto, io parto con una domanda che arriva da un amico, Gianluca Cimetti, probabilmente oltre che tifoso di Packers, di sport americani, è un amministratore di Play It, anche il più grande tifoso italiano dei Kansas City Royals, fa una domanda su Mike McCarthy, che noi affettuosamente nel nostro gruppo Facebook chiamiamo Bombolo, e chiediamo più o meno cosa ne pensi te. Innanzitutto pensavo benissimo del Bombolo originale, che era un grande idolo come attore, che veramente, quindi diciamo che ci vuole un personaggio di una certa levatura per meritare questo soprannome, a parte gli scherzi. McCarthy si è guadagnato la fiducia a Green Bay perché si è inserito perfettamente nella cultura di quella squadra, di quella città, pur venendo da zone completamente diverse anche come nascita, anche se poi è venuto su nella zona di Pittsburgh, quindi certe idee, certe mentalità del cuore dell'America le aveva acquisite. È stato scelto un po' anche per quello, lo hanno scelto accuratamente. A me è sempre piaciuto per la pacatezza con cui gestisce la squadra, avendo comunque visto anche qualcosa a livello di training camp, anche un pizzico, non dietro le quinte, ma comunque in un atteggiamento, in un modo che non erano quelli ufficiali e posti per la visione pubblica. Quindi sostanzialmente positivo, con lui la squadra è perennemente ad alti livelli. È vero che questi alti livelli si sono tradotti solamente, e si può dire solamente, in un Super Bowl vinto, ed è vero che c'è stata qualche caduta sul piano tattico generale. Va detto che ha saputo gestire alla meglio Aaron Rodgers, che come sapete non era stato scelto da lui quando era a San Francisco, gli era stato preferito Alex Smith. Per fortuna! Sì, esattamente, esattamente così. Quindi anche gestione ottima di Aaron Rodgers dal punto di vista della, come dire, dell'elasticità con cui gli dava istruzioni, perché sapete che McCarthy ha sempre avuto mano notevolissima nelle scelte offensive, ma anche in cui lasciava che un talento come Rodgers potesse sostanzialmente gestire quello che gli dicevano i propri occhi, che sono di altissimo livello proprio sul piano della visione del gioco. Chiaramente la sconfitta nella finale della NFC ha lasciato molte conseguenze, le sapete, le avete illustrate sul piano proprio della gestione dello staff. È l'ennesima annata importante, però solamente in caso di grave caduta a livello proprio di rendimento abbassato McCarthy potrebbe rischiare, perché nonostante il fatto che il football a livelli professionistici sia un business, sia una professione rigida e anche molto cinica, come sapete, c'è un margine un pizzico maggiore di protezione per un allenatore a Green Bay rispetto a altri, se ha dimostrato di avere fatto qualcosa. Detto questo, se la stagione finisce 4-12 si va su altre soluzioni probabilmente. Ok. Ecco, per esempio, io volevo chiederti, restando in questo argomento, tempo fa su Twitter, se non ricordo male, mi avevi detto una cosa del tipo: ho visto lavorare McCarthy e preferisco lui, il modo in cui lavora, piuttosto che Belichick. In che senso? Ma allora, Belichick ha sempre quest'aria purtroppo losca, mi dispiace dirlo perché bisognerebbe usare aggettivi che si userebbero di fronte alla persona in questione, mentre un po' vigliacco dire losco sapendo che lui non può sentire queste parole, però mi sembra che sia abbastanza risaputo che l'aria è quella di quello che trama costantemente, mentre cosa... Peraltro, in alcuni casi è stata, non dico dimostrata perché non è così, però c'è sempre quest'aria strana intorno ai Patriots, che fra l'altro come dire, danneggia gli stessi Patriots, perché comunque indubbiamente la squadra c'è, non è che si parla di una squadra scarsa che in qualche modo tiene qualcosa. Tornando a noi, McCarthy ha una gestione positiva, sorridente ma molto rigida, perché ha sempre quest'aria, beh, da bombolo avete detto giustamente voi, ma comunque con un polso notevole sulle situazioni, con la capacità in pochi minuti durante il training camp di spostare un giocatore dalla seconda alla terza linea della graduatoria, della classifica interna per il ruolo a depth chart. Io ricordo, perché mi ricordo che su Twitter avevi scritto in diretta che stavi assistendo a degli allenamenti dei Packers durante il training camp, mi pare uno o due anni fa, o due o tre anni fa, se non mi ricordo quando, e appunto com'è come si sviluppano gli allenamenti, cos'è che c'è di particolare, perché da quello che sembra messo su Twitter, seguendo magari la timeline dei vari reporter, sembrano allenamenti molto, molto corti e condensati. Sì, è vero, li ho seguiti in due anni diversi, 2010 e il 2013, e la tipologia è lo stesso, ovviamente variavano alcuni dei giocatori, variavano qualcosina dello staff, ma sono molto condensati, e c'è un personaggio veramente particolare che è quello che ha il compito di guidare il passaggio da un esercizio all'altro, da una sezione all'altra, che è questo tizio piccoletto, anche un pochino robusto, ma anche robusto nel senso di molto palestrato, che urla e corre da un punto all'altro del campo. Finito un esercizio col conto alla rovescia, c'è la sirena che suona, è finito un esercizio, questo tizio prende i coni o prende quello che serve prendere, magari un pallone, e corre urlando verso il punto in cui si svolge l'esercizio successivo. È anche uno spettacolo, se vogliamo, fa un po' ridere, ma ci sono molti urli, ha un po' l'idea in certi momenti di un campo di istruzione militare per come si guidano gli inizi degli esercizi. Poi l'esercizio si svolge in maniera diversa, è molto bello secondo me quando ci si divide per reparti, considerando che c'è solo un lato accessibile alla stampa, ai media, quello che succede dal lato opposto del campo, nel senso orizzontale, non si riesce a vedere, o si riesce a vedere perché c'è la tribunetta del pubblico, ma è un pochino meno comodo. Dal mio lato c'erano sempre gli esercizi della linea di difesa, che sono secondo me molto belli, anche perché Mike Turgovas, l'allenatore della linea di difesa, è un personaggio molto carismatico, molto grintoso, e esercizi belli, perché comunque vedi questi giocatori, che come sapete non sono né piccoli né particolarmente agili, che veramente danno tutto. Poi ci sono casi, soprattutto negli esercizi, nelle simulazioni di 7 contro 7, 11 contro 11, in cui se sono di fronte due giocatori la cui presenza nel roster è pressoché certa, c'è quello che si chiama veterans agreement, ovvero si mettono d'accordo, nessuno dei due fa fare brutta figura all'altro, sostanzialmente, per evitare grame. Negli altri casi invece, come sapete, ci si gioca un posto di lavoro, ci si gioca l'esistenza dal punto di vista professionale, e quindi si va oltre. Però ecco, è bello vedere questi esercizi singoli, secondo me fenomenali. E nell'occasione del 2010 mi era capitato di essere accanto a un allenatore di high school che osservava meravigliato come la linea di attacco, questo allenatore che aveva notato proprio la perfezione, la sincronia quasi da balletto dei movimenti della linea di attacco, un'osservazione che ho fatto mia, perché comunque l'ho notata anche nel resto della stagione. Poi è evidente che anche altre squadre hanno questa stessa dote, questa stessa capacità, e io badavo con più attenzione a quella espressa dai Packers perché avevo sentito e visto quelle cose in allenamento. Non è che ovviamente si possa distinguere molto a questi livelli tra una squadra e l'altra, quindi mi era rimasto quel ricordo. Va detto una cosa, devo essere completamente onesto, il training camp al terzo giorno, passata l'esaltazione che c'è sempre per fortuna nonostante tutti questi anni, può anche diventare noioso, e metti in guardia, perché sono gli stessi esercizi giorno dopo giorno, sai già tutto quello che verrà fatto, e diciamo che al decimo uno contro uno di uomini di linea puoi anche distrarti un attimo, perché Roberto, tu da sappiamo che hai seguito più di qualche Super Bowl in diretta, hai partecipato a più di qualche training camp, e quindi diciamo che il mondo sportivo americano lo conosci molto molto bene. Qualche parola su Green Bay come città, come esempio unico dello sport americano, puoi dirci qualche aspetto romantico di questa favola, possiamo chiamarla in un certo modo? Ma per dire una cosa che dico spesso per spiegare Green Bay e l'importanza che ha la squadra è questa: di gran lunga lo stadio è l'edificio più alto della città, e lo era ancora prima dell'ultimo ampliamento. Questo vuol dire tanto per una città americana, anche se non è una città americana di primo livello dal punto di vista della popolazione. Lo stadio lo vedi arrivando da fuori, ma lo sapete, quindi da molto fuori ci si può aiutare. È in periferia, ma in realtà vicinissimo al centro, se si parla proprio della città di Green Bay, ed è un posto dove secondo me si vive molto bene, come in tante città di dimensioni simili negli Stati Uniti. Ho conosciuto una città all'estremo opposto del Wisconsin, che è La Crosse, dove c'è un'università, dove c'era il training camp dei Saints che ho seguito nel 1988, e alla prima sera americana della mia vita che non fosse Super Bowl, perché ero già stato al Super Bowl prima di andare lì, e mi sono meravigliato nel vedere che la gente usciva di casa lasciando la porta aperta. Sì, perché vero. Comunque, nonostante avessi studiato molto l'America, questo dettaglio di quelli che vedi solo da lì, questo dice tanto dell'atmosfera, del modo di fare. Poi lo sapete, gli abitanti di Wisconsin sono ritenute persone un pochino rustiche, un pochino alla buona, molto dedite agli sport di avventura, gli sport in esterni, alle attività all'aria aperta, affinché l'aria aperta è praticabile, come sapete, perché c'è un clima un po' pesantino. I giocatori che vengono da fuori magari fanno un po' fatica a abituarsi sul piano degli svaghi, perché è vero che c'è Milwaukee un'ora e mezzo, però comunque durante la stagione si è anche piuttosto stanchi, però apprezzano il lato opposto, il fatto della tranquillità, il fatto del vivere bene, del far crescere i figli in un ambiente abbastanza rilassato e anche con scenari piuttosto interessanti. Quindi è davvero particolare. In molti casi, quando si parla di sport, non solo in America, si dice sempre è un posto particolare, un'atmosfera particolare, senza mai spiegare in cosa lo sia. In questo caso, in effetti, basta dire particolare, perché bisogna semplicemente notare le dimensioni della città, dove è situata, il fatto che addirittura in aeroporto molte squadre non arrivino a quello di Green Bay, ma a quello di Appleton, che è una trentina di chilometri, perché è migliore. Questo già dice molto, ecco, della particolarità del posto. So che Salvatore ha una domanda molto interessante. La difesa dei Packers lo scorso anno si è detto che avesse come problema principale quello degli inside linebacker. Sappiamo che è stato spostato a metà stagione Clay Matthews all'interno, poi a fine stagione sono stati tagliati i due titolari di inizio stagione, AJ Hawk e Brad Jones, e si pensava che al draft Thompson avesse puntare subito su un inside linebacker già al primo giro. Così non è stato, il primo è stato scelto al quarto giro, 3, 4, 5 ricevitori in campo contemporaneamente, ormai non si usa più la difesa base. E secondo te è l'approccio giusto, nel senso non puntare tanto sugli 11 titolari della difesa base, ma puntare ai pacchetti che fondamentalmente aiutino sul gioco aereo? È così che si sta evolvendo l'NFL? Ma come sapete, l'NFL, il football, è una continua evoluzione, ma soprattutto un continuo ciclo che si apre per decisione di qualcuno, perché c'è qualche iconoclasta che introduce qualcosa di nuovo, tutti lo seguono, se è un difensore, un attaccante, o se è un allenatore della difesa, un attaccante, il reparto opposto cerca di prendere le contromisure, e a volte il reparto opposto va oltre, crea a sua volta una innovazione che costringe quello che stato lì all'inizio a inseguire. È un procedimento secondo me molto affascinante, e adesso si è arrivati in effetti a questo livello. Il discorso che avete fatto per i linebacker vale ad esempio da qualche anno per quanto riguarda i safety, ovvero non si cerca più in teoria, perché poi abbiamo degli esempi tipo Earl Thomas che sono un po' particolari, non si cerca più il safety che sia diverso dal cornerback, ma il defensive back che sia in grado di fare più cose. Devin McCourty dei New England Patriots è l'esempio, che in effetti è stato spostato varie volte di ruolo, ovvero se tu sei solo un safety, uso sempre il maschile, so che si dice la safety, ma io sono nato sentendo questo dal mio allenatore e non riesco a cambiare. se sei solo quello che, come si diceva una volta nelle difese base, strong safety, copri il tight end, quando ti si presenta un fronte con un tight end di quelli moderni, quindi che sta a 4 metri dalla linea, che va a correre una traccia da ricevitore, non riesci a stargli dietro e quindi sei un momento di possibile debolezza della tua difesa, quindi si va verso tipologie di giocatori che possano coprire più ruoli e soprattutto tanto campo. E bisogna vedere se è un atteggiamento vincente, perché poi l'attacco in questa maniera mette tanti ricevitori, sfrutta i mismatch. Diciamo, dal punto di vista di Green Bay non mancano ricevitori in grado di fare bene, però la domanda nasceva dalla difesa di Green Bay. L'ideale è tanta pressione che permetta al quarterback pochi secondi, e quindi gli atleti, non solo i difensori, gli atleti che devono andare in copertura, che abbiano la capacità di tenere la marcatura uno contro uno quando è prevista e causare quindi sack di copertura. È il solito gioco per cui un reparto condiziona l'altro. A me piace vedere dove andremo a finire, se vogliamo, perché ad esempio nell'ultimo anno è stato un pochino rivalutato il ruolo del running back, che invece sembrava decisamente sparito. Anche nel draft mi sembra che si sia andati un pochino con più di attenzione a certi running back, però e lo si è visto anche con New England, per non parlare della potente gioco di corsa di Seattle, ecco. E poi il buon vecchio Eddie Lacy, tornando diciamo all'argomento nostro, anche lì running spariti per qualche anno, nell'ultimo anno sono tornati un po' di moda. Allora, se torneranno sempre più di moda i grandi running back, i difensori un pochino più leggeri dietro la linea, in grado soprattutto di seguire le tracce dei ricevitori, potrebbero avere qualche problema in più a placcarli, e quindi magari si dovrà tornare all'inizio. Io non so come sapere, posso sapere come andrà a finire, ma mi piace molto l'idea di seguire questo sviluppo. Ecco, visto che hai nominato Seattle, se hai tempo volevo farti un'altra ultima domanda, non so se poi devi andare. In questi giorni si sta parlando delle cifre pretese da Russell Wilson per il rinnovo, vuole a quanto pare essere il quarterback più pagato della Lega, ma solitamente è sottovalutato parecchio. Secondo te è un buon quarterback a livello di un Aaron Rodgers? Io mi sono sbilanciato più volte pubblicamente, quindi non mi va di smentirmi dicendo che per me Aaron Rodgers è il miglior quarterback che ci sia in giro, perché ha dei momenti, ha dei lanci, ha degli attimi in cui è, a mio avviso, ineguagliabile. Quindi nessuno può essere al suo livello nella mia testa, nella mia visione. Wilson è un giocatore moderno, versatile, intelligente, determinato, leader. Fa bene per quella che è la mentalità e lo standard dello sport americano a pretendere tanti soldi. Poi che siano il massimo, che sia appena meno, dipende anche dalla capacità di venirsi incontro. Però ho letto alcune considerazioni, purtroppo veramente, perché in questo periodo devo seguire altro, e Seattle, perdendo eventualmente Russell Wilson, tornerebbe indietro di 10 anni. È troppo importante il quarterback nell'NFL di oggi, e alla fine, questo va detto, quasi sempre arrivano in fondo o vincono le squadre che hanno il quarterback migliore, al di là dell'equilibrio che c'è spesso nell'NFL. Visto che siamo a 2 giorni dal Super Bowl italiano, io personalmente non l'ho seguito molto, sono sincero, ma visto che ci siamo, se ha un pronostico sulla partita di sabato? Quest'anno, pronostici in generale io sono molto poco portato a farli, perché il bello dello sport è proprio che nel nostro sport, magari in senso specifico, un lancio toccato da un difensore finisce in mano a un ricevitore che aveva sbagliato la traccia. Dice noi che è uno che ha sbagliato un appunto, esatto. Un boss che qualunque, quindi non si può prevedere una cosa del genere. Quindi poi quest'anno, purtroppo, dopo aver seguito molto il football italiano negli anni precedenti, perché ero stato anche l'addetto stampa della Lega italiana, quindi ritenevo fosse giusto vedere anche 3 partite in un giorno, se riuscivo a correre da un campo all'altro. Quest'anno i weekend sono stati impossibili, per cui non ho visto purtroppo nemmeno una partita. Mi dicono tutti che dovrebbe essere una partita fenomenale, perché sono 2 squadre che sono arrivate bene al momento giusto, quindi dovrebbe essere una grande partita, e le ultime sono state poco equilibrate. Anche tra queste 2 squadre questa volta si conta che siano un pochino di più. Ok, benissimo. Vedremo, magari ti vedremo quindi dopodomani al Vigorelli. conto di esserci perché sono già del resto a Milano e non si può mai dire purtroppo, ma non, al momento non vedo intoppi. Ok, ottimo. Grazie Roberto per essere stato con noi per 2 giorni praticamente, visto tutti i problemi. Contiamo sul fatto che prima o poi tornerai nostro ospite con condizioni di linea migliore magari. Certamente, non posso garantire condizioni di linea, ma la presenza sì. No, infatti in uno dei momenti in cui è caduta la linea dicevo che Fox / Sky dovrebbero investire più che sulle acquisizioni di diritti sulla linea Wi-Fi. Ovviamente. Devo essere sincero, è fenomenale come velocità, perché ovviamente qua bisogna spesso scaricare o inviare dei file estremamente pesanti e io rimango stupito dalla velocità con cui si mandano. Ci sono dei momenti in cui probabilmente stiamo inviando tutti dei file di un terabyte, perché altrimenti si spiega. Grazie mille Roberto, veramente. Bene, grazie mille, alla prossima. Grazie a tutti. Ok, sarà grandissima intervista secondo me. Grandissimo onore parlare con Roberto, una estenuante perché l'intervista è durata 2 giorni praticamente, però dai, ce l'abbiamo fatta finalmente, no dai, è stato bello, è stato disponibilissimo e pare una grandissima persona, quindi speriamo di averlo presto, dai. Niente, questo qui, andando avanti, è un periodo in cui non succede assolutamente nulla. Ma no, una cosa sola, Salvi, ti interrompo, perché è stato interessante la notizia che è venuta fuori ieri dopo l'intervista di Favre al Sport Illustrated, il fatto che... Ricordati magari di mandarmi la mail. Beh, sai che non lo farò mai, però non mi ricorderò mai. Che Tab Thompson sembrerebbe avesse mandato 2 sms dopo le varie scoppole che ci ha dato Favre l'anno che ha giocato con i Vikings. Interessante, perché comunque dimostra che, cioè, ma io sinceramente penso che sia stato un grande atto di grande classe da parte di Thompson e comunque dimostrato che da parte dei Packers non c'era nessuna invidia, non c'era nessuna gelosia, anzi solo di rispetto per una persona che è arrogante ma comunque sempre amata. Non lo so te come la vedi. Sì, io ho pensato 2 cose. Uno, a parte vabbè, la galanteria, insomma, l'essere un signore da parte di Thompson, e questo spesso magari passa in secondo piano, nel senso che... Sì, perché non è esterna come, molto, infatti. Viene visto come più un burbero, insomma, una persona abbastanza sulle sue. Invece, a quanto pare, è un galantuomo. Però le 2 cose che ho pensato sono: uno, chissà come ha risposto Favre, magari con foto de... non diciamo, No, l'altra cosa un po' più seria che ho pensato è che ci fosse davvero anche, nonostante le scopole prese, la confidenza nel fatto di aver comunque scelto bene, di avere la tranquillità, insomma, di aver scelto Aaron Rodgers, quindi poteva anche permettersi di essere galante perché non c'era nessuna cosa di cui pentirsi, insomma. Dai, infatti, a posteriori la scelta è stata senza dubbio positiva, cioè voglio dire, comunque Favre ha giocato altri 3 anni dopo che ci ha lasciato il primo dei Jets, dove non aveva neanche cominciato male. Poi è tornato il Favre degli ultimi anni e quindi ha distrutto tutto quello di buono che aveva fatto. L'anno di Vikings è stato un anno sicuramente buonissimo, uno dei migliori anni della sua carriera, mi pare, sulle statistiche non ce le ho. Vado a memoria. Sì, mi ricordo che tra l'altro quell'anno io ero nella situazione in cui non riuscivo ad odiarlo, nonostante fosse andato ai Vikings. Io lo odiavo, mi stava sul cazzo, posso dirlo, però alla fin fine gli vuoi bene comunque, perché comunque è sempre comunque Favre, comunque è una persona molto su cui ci si sicuramente ci si divide, però non un tifoso Packers ma non può odiarlo, secondo me. Però sono infatti contentissimo che sia finita come sia finita, con l'intercetto a New Orleans quando aveva 30 yard da poter correre. Sono contento che sia finita così, sinceramente. Sì, col senno di poi e anche durante, sì, è stato un grande sospiro di sollievo, però in quella stagione lì molte volte mi sono sorpreso a dire dai, però cazzo se lo merita, se lo meriterebbe un altro, cazzo però Sì, fosse stato con noi, sì. No, io a quel punto no, a quel punto là no, sinceramente. Anzi, una delle partite che ho più sofferto e che più ho avuto piacere vincere è stata l'anno dopo, la partita che ha fatto l'ultima volta che è venuto al Lambo, che abbiamo vinto, tra l'altro, dove lui ha rischiato di fare un comeback clamoroso, non so se ti ricordi, è stato un passaggio da 40 yard che Moss l'aveva quasi presa, e il piede che invece era rimasto praticamente stato fuori di 10 centimetri neanche, secondo me. Quella partita lì è stata la svolta della stagione da parte nostra. È girata la stagione e abbiamo capito di potercela fare. Persa quella partita, sì, sì. Non avevo vinto il Super Bowl. A parte che non ci saremmo neanche andati ai playoff se non avessimo perso quella partita. Quindi, però è stata la svolta. Comunque, dai, sempre. Vediamo. Sono curioso di vedere quando verrà il Lambo, cosa succederà. Un'altra cosa che è successa nella notte italiana, non è successa in realtà, semplicemente il programma di NFL Network dei top 100, migliori 100 giocatori dell'NFL, e Jordy Nelson, finalmente qualcuno si è reso conto di quanto sia bravo Jordy Nelson, è stato nominato il 18° giocatore più importante dell'NFL fondamentalmente in questa classifica che stanno tirando fuori di settimana in settimana dalla 100 alla 1. Puttanata clamorosa, possiamo dirla, però. Sì, assolutamente. Però l'anno scorso era 85esimo, se non sbaglio. Per cui, sì, però, se non altro. Cioè, io, Jordy Nelson, lo adoro, è il mio giocatore preferito, posso dirlo. Ho la sua maglietta. Però, vuol dire, non puoi mettere Cobb 100° e Nelson 18°. Cioè, non ci sta, non c'è la differenza. E comunque, con tutto il bene che voglio a Jordy, ok? E poi, come dice mia moglie, alla fin fine lui sa che le ricezioni e i touchdown li fa perché è bianco, quindi i cornerback che sono la maggior parte di colore, ma un bianco non potrà mai ricevere corner forte, quindi è per quello che ho... cioè, non è un top 5 wide receiver, secondo me, cioè, è comunque una spanna sotto i Calvin Jones, e Larry Fitzgerald e quant'altro. Dopo lui fa delle giocate che sono assolutamente da circo, però secondo me potenzialmente è sotto quelli, gli elite di wide receiver. Dopo io mi tengo comunque Jordy per come persona e come uomo spogliatoio e come prestazioni sul campo, però a livello di diciamo di upgrade, secondo me Calvin Jones e Larry Fitzgerald sono un'altra cosa. Sì, cioè, probabilmente sì, come atleti in quanto tali sì, però effettivamente spesso e volentieri la testa e la voglia fanno la differenza, certo, magari su atleti che fisicamente gli danno una spanna, ma certo, e anche in altezza gli danno una spanna o due, certo, ma alla fine poi insomma. Beh, gli altri Packers che sono in questa classifica sono stati Cobb al 100° posto, appunto, poi c'era Peppers al 71°, Lacy al 60° e Matthews al 51°. Io sinceramente su Matthews non lo so, tra l'altro lui è il linebacker più pagato nell'NFL, non lo so, io sono sempre stato abbastanza scettico su di lui, nel senso è molto appariscente di sicuro, tra i capelli, fa delle grandi azioni eccetera, e adesso mi attirerò le ire dei 10 che ci ascoltano, ma no, mi sembra che ci sia anche molta hype in realtà. Sì, poi posso dirti, lo adoro, per carità, certo, però... no per tutti quanti alla fine. Allora io volevo parlarne anch'io perché giustamente fatalità ieri ne hanno parlato i due maggiori podcast che entrambi ascoltiamo, quindi secondo me anche da qui nasce questo scetticismo, ok? E faccio nostra, perché posso parlare al plurale, l'idea di quella che è stato fatto forse di sublime, che è un giocatore spettacolare quando è al 100% della forma, cioè che è al 100% rende come pochi, ok? Però quando già è al 90%, non è che gioca al 90%, ma gioca al 60%. Cioè è un giocatore che deve essere al massimo della sua forma psicofisica per rendere... E rendi in maniera, io ricordo una partita strepitosa che forse non questa stagione, ma quella prima, la prima partita della stagione che abbiamo fatto in casa contro San Francisco, che abbiamo perso ovviamente, ok? E lui ha fatto una partita dove ha fatto due o tre sec, è stata la nostra difesa per tutta la partita, che se poi l'abbiamo persa, ha rotto il naso Justin Smith, cose del genere, è stato devastante. E poi ovviamente la fine stagione, con gli infortuni che la stanchezza che si porta fino alla fine, ok, non ha più reso quello che rendeva all'inizio. Non lo so, questa è l'idea che, dopo dire che sopravvalutato, non lo so, forse è forte, come posso dire sopravvalutato. Certo che è pagato per essere uno dei migliori della Lega, questo sì. Sì. Poi, tra l'altro la magata, possiamo dire così, dell'anno scorso di spostarlo parzialmente all'interno gli ha salvato la stagione, perché altrimenti, l'ho scritto da qualche parte, mi pare, nei giorni scorsi, magari staremmo parlando di un Matthews in declino, magari gli ha allungato la carriera, magari anche, quindi. Clay, non ti cazzare con me per quello che ho detto, insomma. Blitz dal lato cieco al prossimo meeting, catti tuoi. Vabbè, almeno voi farete le foto, insomma, almeno certo. C'è stato Matthews. Concussion per te, quindi fuori per tre la scusa mesi. La scusa per non giocare e non droppare altri palloni, esatto, durante la partita. Esattamente. Ah, vabbè, è una stupidata in realtà, nel senso che è uscita la data del supplemental draft della NFL, che non ho ben capito quali siano i giocatori che possono parteciparvi e quali no. Comunque è un draft supplementare che viene fatto ogni anno e che viene usato pochissimo in realtà dalle squadre. Penso siano quelli accademicamente non eleggibili, però non chiedermi cosa vuol dire accademicamente non eleggibili, non chiedermelo. Sì, no, infatti non ho capito neanche io in realtà, però sarà il 9 luglio quest'anno. In realtà nessuna squadra appunto ha fatto una selezione a questo draft supplementare da quando i Browns hanno preso Josh Gordon, quel grande grande non lo so, potenzialmente non so fortissimo, poi che fumatore di marijuana possiamo chiamarlo, quel gran furbone, dai, esatto. Perché, e, da quando appunto hanno preso Josh Gordon nel 2012, i Packers in particolare invece non prendono nessuno al draft supplementare dal 98. Avevano preso quell'anno Mike Whale. Ah! Che neanche male, dai. Infatti. Tra l'altro, la particolarità è che, ovviamente, se tu usi una scelta del draft per il draft supplementare, poi perdi la scelta corrispondente nel draft vero dell'anno dopo. Per cui, ovviamente, le scelte le tengono poi per i giocatori. Esatto, ma io ho letto poco, ma mi pare che sia una cosa che andava molto più di moda negli anni scorsi ormai, e che mai ha perso gran parte del suo significato, mi pare di aver capito questa cosa qui, quindi no, però non è che ne sappia moltissimo, più di quello che tu hai detto. Chissà, poi magari in realtà Thompson ci stupisce e prende qualcuno, non si sa mai, quindi esatto. Vediamo. Un altro caso... defensive back magari. E, allora, che dici? Siamo arrivati al punto della nostra piccola rubrica? Sì, vai, ci sta. Allora, intanto prometto... Di cagate prometto io te ne abbiamo dette oggi, quindi... Prometto che prima o poi elaborerò anche una piccola sigla da mettere all'inizio del segmento, come fanno le persone serie. Per adesso, insomma, facciamo senza, quindi ricordiamo, questa qui è una piccola rubrica storica che abbiamo pensato. Si chiama Packers by the Numbers e sostanzialmente associando il numero di ogni nostra puntata al numero di un giocatore dei Packers del passato, parliamo di quel giocatore, magari anche dell'epoca in cui ha giocato, eccetera. Tagliando, la puntata di oggi, la numero 16, nel libro che prendo come riferimento, che si chiama appunto Packers by the Numbers, il 16 è associato a Ernie Herbert, che è stato un tailback. Ecco, ti fermo solo, giusto per par condicio, dovremmo fare un recapitolo dell'1 al 14, non abbiamo dato a nessuno praticamente. Infatti ci avevo pensato, però lo faremo, non oggi ma lo faremo. E, allora, Ernie Herbert ha giocato dal 1930 al 1940 nei Packers, nei leggendari Packers di Carly Lambeau, che era ancora l'head coach. È nato nel 1910 e morto nel 1969, entrambe le cose, nascita e morte, sono venute a Green Bay, quindi era duro e puro di Green Bay. È stato eletto nella Hall of Fame nel 66, prima nella Pro Football Hall of Fame che nella Hall of Fame dei Packers, in cui è entrato nel 72. Il ruolo di tailback era particolare perché all'epoca il tailback era praticamente il quarterback che poteva anche correre, quindi le sue statistiche sono statistiche di passaggio. La sua storia era particolare perché era la star della Green Bay West High School negli anni 20, e giocava sia nella squadra di football che in quella di basket. Ha fatto un anno di college a Wisconsin-Madison per poi trasferirsi in un college più piccolo, il Regis College in Colorado, da dove poi è dovuto andare via nel 29 per via della Grande Depressione, è dovuto tornare a casa dalla famiglia, ha cominciato a lavorare come tutto fare nella clubhouse dei Packers. Nel 1930, l'anno dopo, Carly Lambeau lo aggiunse al roster dei Packers come tryout, fondamentalmente voleva vedere se riusciva ancora a giocare, riusciva a giocare tra i pro. Tra l'altro quei Packers erano una squadra della Madonna, per dirla tecnicamente, perché venivano da un 1929 in cui avevano vinto 12 partite, perse 0 e un pareggio, per cui semi-perfect season, campione NFL in carica. Nella prima partita Herbert lanciò un TD pass e tra l'altro erano tempi molto diversi perché il pallone era più grosso, il passing game e le regole erano diverse. Tra l'altro lui aveva delle mani piccole, come dice il libro, e non riusciva a impugnare bene il pallone che era più grosso, appunto, per cui lo appoggiava semplicemente sul palmo della mano e lo lanciava più forte che poteva in avanti. Dicono che avesse un grande braccio, per cui comunque faceva dei lanci anche di 50 yard. Ciao Ethan. Ecco, esatto. No, ma è giusto per partecipare anche lui. Esatto, deve cominciare anche lui prima o dopo. Pensa se ti diventa tifoso dei Bears. Non ci ho mica pensato, no, ma scherzi? Ma cioè, se me ci sta in quel caso il fatto che posso cacciarlo via di casa. Ci sta. Se me, se guardiamo nella legge, ci troviamo un cavillo per trovare queste cose qui. E se non c'è già per legge dovrebbe lo diventare troviamo, legge. Esatto. Lo troviamo, assolutamente. Comunque, Herbert è stato il miglior passatore della Lega in quanto a yards nel 32, nel 34 e nel 36. E soprattutto lui è stato il primo passatore a poter usufruire di uno dei più grandi ricevitori della storia, quel Don Hudson, a cui è anche intitolato il Don Hudson Center a Green Bay, che è stato praticamente il primo vero wide receiver moderno. Probabilmente per la prima volta nella storia nel suo contratto c'era una clausola del peso, nel senso che a lui piaceva bere, come a tutti gli abitanti del Wisconsin, e tendeva anche a ingrassare, per cui Carly Lambo gli ha messo come clausola il fatto che non potesse pesare il giorno di una partita più di 200 pounds. Si è ritirato nel 40 dopo essere stato tagliato da Carly Lambo, probabilmente per questione di peso, lui ha detto così. Poi è tornato nel 44 però con i Giants, perché gli avevano chiesto aiuto dato che molti dei giocatori erano partiti per la guerra, la seconda guerra mondiale ovviamente, per cui è tornato a giocare, ovviamente non era più la persona che era, immagino che pesasse ben più di 200 pounds, e con i Packers ha vinto ben 4 titoli NFL, il 30, 31, il 36 e il 39. Bene, questa qui era la nostra piccola rubrica, spero che vi sia piaciuta, che vi piaccia insomma questa idea, niente di pretenzioso, insomma non sono cose che scriviamo noi, sono prese dal libro. Che copiamo sì. Pedissequamente, si può dire pedissequamente? No, non si dice, però... Ma da ora in poi si potrà dire. No. Volevo solo ricordare il nome del libro, perché se per caso dovete fare un ordine su Amazon o cose del genere, metteteci dentro anche questo perché è molto interessante. Packers by the Numbers, Jesse Numbers and the Players Who Wore Them, di John Maximuk, edito da Oak Press del 2003, mi pare. E quindi, per oggi ci aggiorniamo, cosa dici? Sì, dai, speriamo che abbiamo già un appuntamento per la data della prossima settimana. Abbiamo un ospite che è un amico da Los Angeles, ed è diciamo il capo, anche se è brutto dire il capo, dei CZ di Los Angeles. Quindi, tanta roba. Tanta roba. Sì. Insomma, tanta roba no, però, a frottigotta no, però è comunque qualcosa. Sarà una puntata in inglese, quindi potete prenderci anche in giro per il nostro inglese maccheronico. E tra l'altro, cosa che non hanno fatto, probabilmente hanno pietà di noi ancora. Esatto, o non ci hanno ascoltato, quindi... Dai, buona serata, ciao, grazie mille di tutto. Anche te Matt, saluta anche Ethan, certo. Di che deve stare attento a non diventare tifoso di squadre strane. No, assolutamente, scherzi, adesso facciamo subito i dovuti. Chi diventa interista e dei Bears è finita. Cioè. Guarda, non posso dirlo. Se di casa ti cacci un colpo di pistola sì, in esatto. Faccia. Tu. L'hai detto te, ecco, l'hai detto te. Va bene, dai, grazie a tutti, go Pack go come sempre, noi ci sentiamo la prossima settimana sicuramente. Ok? Ciao Matt. Ciao, salve. The club that's going to hit you. They're going to try to hit you. You're going to take it out. Just hit. Just run. Just block. And just tackle. If you do that, there's no question what the answer is going to be in this ball. Keep your poise. There's nothing that they can show you out there. You have to face the number of times. Right?